La situazione in Cisgiordania, nei territori occupati, è incandescente già da qualche mese e ci sono ovviamente organizzazioni di coloni che sono appunto gruppi organizzati, su questo vorrei ribadirlo, che stanno portando avanti delle azioni molto violente. Quindi da una parte abbiamo i raid soliti ma con un grado di violenza diciamo accentuato da parte dell'esercito israeliano e dall'altro abbiamo questi gruppi che vengono definiti proprio milizie ebraiche messianiche, cioè sono gruppi organizzati che stanno portando avanti delle azioni di una violenza inaudita. Pensiamo a quello che è successo nella città di Huwara in questi giorni, in cui abbiamo visto scene davvero apocalittiche con fiamme, case date alle fiamme, automobili date alle fiamme, da parte di coloni protetti ovviamente dall'esercito israeliano. Ma in questo caso le azioni erano così violente che sono anche sfuggite addirittura al controllo dell'esercito israeliano. Questo viene peraltro, per così dire, incoraggiato sia dai leader dei coloni, che appunto addirittura c'era un tweet da parte di un leader dei coloni che incoraggiava queste milizie ebraiche messianiche a spazzare via la città di e dall'altro viene incoraggiato anche da esponenti del governo, pensiamo al ministro Bezalel Smotrich che addirittura ha messo un like a questo tweet che poi è stato cancellato e rimosso. Quindi è una situazione molto complicata, molto tesa, che il governo israeliano non solo non riesce a incoraggiare, ma componenti del governo israeliano la stanno addirittura incoraggiando. La politica delle colonie, dei nuovi insediamenti è una politica appunto che questo governo sta portando avanti, che consente insomma di realizzare anche rispetto ad alcune poche, va detto, critiche a livello internazionale. Sì, assolutamente, nonostante ci siano timidi tentativi di criticare delle violazioni così palesi e così aperte del diritto internazionale, questo governo per sua stessa natura non può fare altrimenti. Come ha brillantemente illustrato lo storico israeliano Ilan Pappe, questo governo è formato da tre componenti principali e la più forte da un punto di vista proprio della strategia politica è proprio quella dei coloni nazionalisti estremisti, che hanno raddoppiato i voti rispetto agli appuntamenti elettorali precedenti e che esprimono ben due ministri, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che ho nominato prima. E questi ministri devono rispondere al loro corpus elettorale, devono dare una risposta ai loro elettori, e i loro elettori sono fondamentalmente coloni che vivono in questi insediamenti coloniali, che vogliono espandere gli insediamenti coloniali e vogliono la legalizzazione di quegli insediamenti, di quei cosiddetti avamposti che sono addirittura illegali anche per la legge di Israele. Quindi non possiamo che aspettarci una espansione territoriale da parte degli insediamenti coloniali nonostante le timide reazioni a livello di comunità internazionale. Di due giorni fa una decisione, una notizia congiunta tra le autorità israeliane e quelle palestinesi per cercare di abbassare la tensione, ma evidentemente siamo destinati a vederla aumentare. Sì, in Giordania c'è stato questo meeting ad Aqaba, che è questa città nella Giordania, ai confini con l'Arabia Saudita, ma c'è da dire questo, che questo meeting era organizzato tra alcuni esponenti israeliani e parte dell'autorità nazionale palestinese, con ovviamente lo sponsor dei soliti Stati Uniti e di alcuni paesi arabi, ma diciamo che da una parte appunto anche gli esponenti ufficiali del governo poi devono rispondere alle frange più estremiste della società israeliana, che al momento, come ho detto, sono prevalenti. Dall'altra parte c'è l'autorità nazionale palestinese che sta agendo in un modo che non è riconosciuto e non è rappresentativo di quello che è invece la volontà del popolo palestinese. Quindi l'autorità nazionale palestinese, capeggiata da Mahmoud Abbas, in questo momento è quanto mai povera e quanto mai priva di rappresentazione. Per cui immediatamente gli esponenti delle altre fazioni politiche e gli esponenti della società civile palestinese hanno dichiarato che quella rappresentanza non è rappresentativa del popolo palestinese e hanno invece ribadito il loro appoggio a forme di resistenza nella Cisgiordania occupata. Quindi in questo momento più che mai l'autorità nazionale palestinese, diciamo, fa molta fatica a tenere salde le fila del suo consenso.